Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Salva Danaio. Da Deborah Rosciani ben ritrovati. Borsa Italiana ha ufficialmente cancellato i titoli Alitalia e le obbligazioni convertibili da listino milanese. Le azioni erano state sospese a Piazza Affari il 4 giugno scorso, lo ricorderete, si era in piena fase di trattativa per l'ingresso nella nuova società della cordata di imprenditori guidata da Roberto Colaninno. Da allora i possessori di azioni e obbligazioni della vecchia compagnia aerea attende di conoscere il destino del proprio investimento, ma le prospettive di rientrare in possesso del proprio denaro non sono propriamente rosee, ma in ogni caso sono molto diverse a seconda che ci si ritrovi nella condizione di ex obbligazionista o ex azionista Alitalia. Insomma, la storia si ripete per molti risparmiatori italiani che già in passato si sono scottati con Cirio, Parmalat, con i bond argentini, anche se va precisato che relativamente ad Alitalia ci troviamo di fronte ad una vicenda molto diversa che presenta aspetti diversi rispetto ai clamorosi crack del passato, alcuni dei quali frutto anche di vere e proprie truffe e frodi finanziarie. E comunque la questione qual è? Che la conseguenza per chi ha investito in questi titoli, la conseguenza, la sorte è la stessa, il rischio è di non ritrovarsi niente in mano. Oggi allora facciamo di nuovo il punto della situazione, perché molti di voi continuano a scriverci chiedendoci proprio di ritornare sull'argomento. Ovviamente se avete una situazione in sospeso e vi ritrovate in mano titoli o azioni o obbligazioni all'Italia e non sapete bene che cosa fare del vostro investimento che rischia di andare in fumo, chiamateci questa mattina all'800 24 0024. Perché vi metteremo in contatto con i nostri ospiti e cercheremo di capire qual è la vostra specifica situazione. Buongiorno e grazie di essere di nuovo con noi all'avvocato Gianfranco Graziadei, rappresentante comune degli obbligazionisti all'Italia, oltre che avvocato e professore di diritto bancario alla LUIS di Roma. Avvocato, buongiorno. Buongiorno. Grazie ancora e grazie anche a Roberto Tascini, segretario nazionale di un'associazione dei consumatori ad hoc, telefoni bollenti a questa associazione dei consumatori come a molte altre da parte appunto di vecchi azionisti o vecchi obbligazionisti, li chiamiamo vecchi ma sono praticamente coloro che si sono accodati di recente a questa categoria, perché conosciamo ex azionisti Parmalat, ex obbligazionisti Cirio e insomma la platea degli sfortunati incappati in qualche disastroso caso di risparmio si continua ad infoltire. Tascini, buongiorno. Buongiorno a voi e ai radioascoltatori. Ecco, tra l'altro con Tascini non mancheremo anche di fare il punto, sempre relativamente ad Alitalia, della situazione da un altro punto di vista, che è quello anche dei nuovi passeggeri della nuova compagnia aerea italiana, perché anche questi insomma non è che siano propriamente molto soddisfatti di come il nuovo gruppo stia gestendo il traffico aereo. E soprattutto il tema dei biglietti è molto interessante, perché l'antitrust aveva promesso di monitorare attentamente, di vigilare attentamente sulle tariffe, ma già altre associazioni dei consumatori hanno denunciato che si sta verificando una cosa molto curiosa e molto strana, e cioè per esempio prenotando la stessa identica tratta, facciamo un esempio Roma-Milano, e andando a vedere che tariffa pratica la CAI e che tariffa pratica Air One, sono adesso la stessa cosa, ci ritroviamo praticamente che le tariffe sono molto diverse, che quella di Air One è molto conveniente. Già su questa curiosità insomma le associazioni dei consumatori sono sobbalzate, magari non mancheremo di commentare anche questo aspetto. Comunque per vecchi, chiamiamoli così, ex azionisti, ex obbligazionisti all'Italia che vogliono intervenire nella nostra trasmissione, numero verde sempre l'800 24 0024, ci potete anche scrivere al 349 238 6666. Faremo il punto della situazione non prima di aver fatto il punto della seduta di borsa, che stamattina è negativa. Fino a qualche minuto fa in realtà le perdite tra i listini europei erano un po' più consistenti, adesso abbiamo un ribasso di circa lo 0,8% a Parigi, Francoforte meno 0,5%, Londra meno 1,22%, abbiamo avuto un indicatore importante stamattina, l'IFO tedesco, l'indicatore di fiducia che è risultato migliore delle attese, e questo serve alla borsa tedesca che perde meno delle altre, non serve completamente al clima che invece è negativo. Però ieri le borse hanno vissuto una giornata invece di balzo rialzo molto molto importante, più 3, più 4% fra listini europei. Milano meno 1,16%, i ribassi più forti sono su Finmeccanica, meno 3, Ubibanca meno 2,89, Autogrill meno 2,58, Generali meno 2,35, Fiat di nuovo in difficoltà, in ribasso del 2%, svette invece l'Espresso questa mattina più 7,55 per il gruppo che sicuramente recupera molto del terreno perso nelle ultime settimane, è stato uno dei peggiori in assoluto per Piazza Affari e per il settore editoriale. Oggi però il titolo brinda, diciamo pure così, comunque reagisce positivamente alle dimissioni a sorpresa da tutte le cariche che sono state annunciate ieri sera da Carlo De Benedetti, nonostante l'imprenditore abbia subito chiarito che la sua decisione non è un preludio ad un riassetto azionario. In ogni caso questa è la reazione di Borsa. Italcementi più 1,90, Fastweb più 1,47. Questa mattina abbiamo un bel balzo anche sul versante valutario dell'euro sul dollaro, a 1,32,53, l'euro si è portato anche sopra 1,33 sul dollaro per l'appunto, per cui la tendenza si è di nuovo modificata a favore della moneta unica europea in questi giorni. Volevo ricordare un'ultima cosa, un'informazione di servizio prima di andare al tema di questa mattina: per domani dalle 9 alle 17 è fissato l'appuntamento con una kermesse tradizionale per il Sole 24 Ore, la 18ª edizione di Telefisco, il convegno via satellite dell'Esperto Risponde, organizzato dalle Sole 24 Ore, con tutte le novità fiscali del nuovo anno. Fra gli argomenti ovviamente si parlerà di molte questioni attinenti alla gestione aziendale, ma si parlerà anche del bonus famiglia, delle novità su IRES e IVA, e noi organizzeremo una puntata di Salvadanaio sui temi di Telefisco giovedì prossimo, quindi dopodomani. Lasciamo la borsa e le informazioni di servizio, andiamo ad Alitalia. I titoli hanno detto addio ieri alla borsa italiana, da ieri da Piazza Affari appunto sono scomparsi il titolo e le obbligazioni, le azioni legate alla vecchia società che il commissario straordinario Augusto Fantozzi sta liquidando sono state appunto revocate dalle contrattazioni. Sentiamo allora la nostra scheda. Il piatto piange, è il caso di dirlo, per gli obbligazionisti e gli azionisti della vecchia Alitalia. Nessuna certezza di rimborso, infatti, si profila all'orizzonte di quanti avevano investito nell'ex compagnia di bandiera, e nulla sembra cambiare la decisione di Borsa Italiana, che ieri ha ufficialmente cancellato dal listino milanese le azioni Alitalia e le obbligazioni convertibili 2002-2010, i cosiddetti Mengozzi Bond. Il titolo Alitalia era già stato sospeso a Piazza Affari il 4 giugno del 2008, a poco più di 44 centesimi di euro e una capitalizzazione di 617 milioni, già fortemente penalizzato dal ripetuto fallimento dei tentati salvataggi della società. Da allora, migliaia di piccoli risparmiatori attendono di conoscere il destino del proprio investimento. Tra di loro ci sono piccoli azionisti e obbligazionisti, ma anche ex dipendenti, che avevano ricevuto azioni della società a titolo di gratificazione o compenso per il lavoro svolto. Per tutti, però, la partita non si chiude qui. Per gli azionisti, l'unica speranza è rappresentata dal Fondo per le vittime di crack e frodi finanziarie del Tesoro, alimentato con le somme provenienti dai conti dormienti, che ad oggi ammontano a circa 800 milioni di euro. Il fondo, però, è destinato a risarcire anche le altre vittime di crack eccellenti, come Parmalat, Cirio e Tango Bond, oltre che a finanziare la Social Card. Sono molti, quindi, i dubbi che le risorse possano bastare per tutti. Maggiori speranze hanno invece gli obbligazionisti ammessi al passivo della società, insieme alle richieste degli altri creditori. Per loro, novità arriveranno in autunno, dall'udienza del procedimento fallimentare della vecchia Alitalia. 800 24 00 24, il numero verde a vostra disposizione. Vedo già che diversi ascoltatori stanno iniziando a prenotarsi, così come in molti ci stanno cominciando a scrivere al 349 238 6666. Mario, con un commento anche abbastanza folcloristico, del quale tralascio la prima parte, dice: non mi è stato permesso di vendere le azioni dal 4 giugno scorso, effettivamente da quella data i titoli sono sospesi, ma guardi Mario, poi magari su questi punti ci arriviamo. La sospensione del titolo a volte è anche una precauzione, una cautela, da quello quel momento in avanti. È chiaro, poi a molti di voi non è stato più permesso poter gestire il vostro portafoglio titoli, ma in realtà forse su Alitalia la sospensione sarebbe dovuta avvenire molto prima, ma poi magari questi sono commenti che faremo nel corso della trasmissione. Un altro ascoltatore dice: il governo aveva promesso che sarebbero state automaticamente traslate su CAI, un automatismo che in realtà aveva dei presupposti e dei tecnicismi abbastanza complicati, ma magari anche su questo punto andremo. Andiamo subito però all'avvocato Grazia Dei, legale rappresentante degli obbligazionisti all'Italia. Avvocato, il 12 novembre scorso lei ha depositato presso la cancelleria del Tribunale di Roma la domanda per l'insinuazione al passivo per conto di tutti gli obbligazionisti. So bene che questa è una domanda che le ho posto anche l'ultima volta che lei è venuto ospite di Salvadanaio, però per chiarezza magari dovremmo spiegare ai nostri ascoltatori in che cosa consiste questo procedimento che è partito. Che cosa vuol dire insinuarsi al passivo di Alitalia? L'insinuazione al passivo è la domanda che fa il creditore di partecipare al riparto di quello che sarà nei ricavi della liquidazione. Il meccanismo previsto dal cosiddetto decreto Alitalia è quello di una unica domanda che ho pensato a fare io come rappresentante comune degli obbligazionisti, nell'interesse di tutti gli obbligazionisti, lasciando la legge a carico di ciascun obbligazionista l'onere di documentare la sua posizione di obbligazionista, inviando direttamente alla cancelleria del tribunale il certificato che dimostri l'attuale possesso di obbligazioni all'Italia. Ecco, chi figura nella categoria ex obbligazionisti all'Italia, avvocato, oltre a molti piccoli risparmiatori? Guardi, quello che mi risulta dalle domande, ho un elenco delle domande fatte in vista dell'udienza di trattazione. Ci sono 188 obbligazionisti e ben 493 azionisti. È chiaro che le domande di insinuazione del passivo molte potrebbero averle fatte gli stessi intermediari finanziari, perché anche gli intermediari finanziari potrebbero aver avuto nel loro portafoglio come proprio patrimonio parte di queste obbligazioni. Comunque quello che mi risulta è che... Ecco, ma questi non passano attraverso di lei, mi sta dicendo, quindi? No, questi non passano attraverso di me, io non li conosco, perché le obbligazioni erano al portatore, quindi gli unici che conoscono gli individui, le singole persone, sono gli intermediari finanziari presso i quali i singoli investitori avevano depositato le obbligazioni, che erano in corrispondenza con la Monte Titoli, trattandosi di titoli dematerializzati, e quindi mantenevano le posizioni. Ce ne sono alcuni intermediari finanziari che mi hanno detto ad avere 1.000, 2.000, 3.000 posizioni, quindi non riesco a fare nessun serio apprezzamento di quanti in effetti siano gli obbligazionisti. E questi eventualmente non possono più insinuarsi al passivo, perché ormai da questo punto di vista la procedura fallimentare ha chiuso questa prima fase? L'insinuazione che ho fatto io è una sorta di ombrello, tuttora valido. Il termine per poter documentare la loro posizione di obbligazionisti è tuttora aperta. Il Tribunale ha fissato un'udienza per la verifica dei crediti degli obbligazionisti per il 21 di ottobre di quest'anno, quindi prima di questa data probabilmente il giudice fisserà un'altra udienza per dare una specie di stop alle insinuazioni, avere il termine così per poterle vedere, non verificarle, non trovarsi con una pletora di persone il giorno del ottobre, ma solo questo. Quindi ecco, i termini sono tuttora aperti, quindi non c'è. E infatti, tra l'altro, magari vale la pena anche specificare che entro questo termine gli obbligazionisti che le rappresentano devono depositare la famosa documentazione giustificativa, no, del diritto di essere obbligazionista. Del diritto di essere obbligazionista. E la devono depositare presso la cancelleria commerciale. In che cosa consiste questa documentazione giustificativa, avvocato? Nel certificato che l'intermediario finanziario, leggi la banca, la SIM o la SGR depositaria dei titoli presso i quali loro avevano i titoli depositati, gli rilascerà. È una certificazione che dice che il signor XY aveva depositato alla tale data questi titoli. Cosa possono ragionevolmente aspettarsi di riottenere queste persone, avvocato, al momento? Possono riottenere, cioè recuperare da un punto di vista economico? Eh sì. Guardi, prima di rispondere a questa domanda volevo completare la risposta precedente dicendo che l'intermediario finanziario deve certificare che alla data del 29 agosto questi signori fossero obbligazionisti. E quindi questo è il discorso, perché quella è stata una specie di linea fissata dal Tribunale. Che cosa possono aspettare? Questo si tratta di vedere come procede la liquidazione. La liquidazione, Fantozzi, come lei sa, sta continuando ad esaminare le offerte di interesse per gli altri asset patrimoniali. Ci sono alcune difficoltà, perché la situazione dell'Alitalia non era una situazione particolarmente valida, che le posso dire, so che ce ne siamo occupati nel comitato di sorveglianza. A un certo punto c'era una società straniera che aveva dei motori dell'Alitalia in manutenzione, non li ridava se non si raggiungeva un certo determinato accordo. Senza questi motori l'Alitalia aveva degli aerei senza motori sui piazzali che non poteva nemmeno restituire alle società di leasing, perché senza motore non potevano volare. Quindi questo tanto per dirle uno dei più eclatanti argomenti di cui ci siamo dovuti occupare. Piano piano si sta cercando di sbrogliare tutta questa matassa. Dopodiché, avvocato, ci sarà anche una graduatoria degli obbligazionisti che avranno diritto ad un rimborso del proprio investimento? Gli obbligazionisti sono dei creditori chirografari che concorrono con gli altri creditori, non hanno un diritto di prelazione. La graduatoria si farà tra creditori che hanno diritto di prelazione e creditori che non hanno diritto di prelazione. Per spiegarmi bene, per esempio, ci possono essere lavoratori che hanno dei crediti di lavoro che sono certamente privilegiati. Tra l'altro, molti ex lavoratori della vecchia Alitalia avevano anche azioni, per cui anche qui la situazione si complica ulteriormente. Andiamo allora al fronte azionisti, poi completeremo naturalmente con l'avvocato Graziadei anche l'ambito obbligazionisti, anche se sul versante azionisti possiamo interpellarlo senza problemi. Però risaluto di nuovo Roberto Tascini, segretario dell'ADOC, e per introdurre l'ambito azionisti Alitalia sentirei anche un paio di testimonianze di alcuni ascoltatori all'800240024 per poi andare appunto a questo ambito. Walter da Roma, benvenuto. Buongiorno a tutti. Senta, io ho comprato circa un anno fa, quando c'era la trattativa data in esclusiva da Padoa Schioppa, da Air France, ho comprato circa 33.000 euro, l'80% dei miei risparmi, in azioni all'Italia. Poi sono arrivati gli avvisi di garanzia a Mastella, alla moglie di Mastella, storie varie, è caduto il governo e poi è cambiata un po' tutta la storia. Allora, le mie domande sono due. Sono andato ovviamente al Codacons, sono diventato socio e mi è stato detto che sarà poi strutturata una sorta di class action. Però le mie domande sono due. La prima è se ho un'alternativa personale per difendermi, non so, un legale personale, o se ci sarà poi un rappresentante di tutti gli azionisti all'Italia. Questa è la prima domanda. E la seconda domanda è un po' più precisa, cioè io non chiedo, in realtà, anche se può sembrare assurdo in questa situazione, di riavere il mio denaro liquido. Io chiedo di riavere il mio investimento, cioè esattamente come lei diceva prima, traslare le azioni all'Italia nelle nuove azioni CAI con una postilla. Ho finito, non mi interessa il valore delle azioni CAI, a me io ho comprato un certo numero di azioni all'Italia e vorrei un certo numero di azioni CAI. Ecco, dico ancora questo, poi ho finito. Questo è motivato non perché ho investito io del denaro, ma perché con una scelta politica mi è stato praticamente azzerato il mio risparmio. Ho finito. Walter, grazie. No, io l'unica cosa no, però mi piacerebbe ancora conversare un attimo con lei, perché qui secondo me la sua considerazione si presta a numerose, come dire, il suo caso si presta a numerose considerazioni. Lei non ritiene di aver fatto un investimento azzardato, data l'incertezza intorno alla quale si muoveva la situazione di Alitalia, proprio nella fase in cui lei ha citato, investire tutto il suo risparmio, non dico in un unico titolo perché poteva anche essere il più solido del mondo, ma data proprio l'incertezza che stava vivendo il gruppo in quel momento, non le è sembrato un investimento eccessivamente rischioso, visto che lei ha voluto mettere quasi tutto il suo risparmio lì? Ma guardi, nella sua domanda c'è anche la risposta. Ovviamente lei ha ragione, E questo che cosa cambia? No, non è che me la... era solamente per... No, non cambia niente, sicuramente, però cioè investire in azioni e in obbligazioni è già una cosa diversa. Investire in azioni significa partecipare al capitale di rischio di una società, e questo già ha del rischioso perché è insito nel tipo di investimento che si fa. Detto questo, quella era una società che in quel momento, ma come lo stava vivendo da anni, una situazione molto incerta, per cui però Walter, adesso noi guardiamo avanti e vediamo che cosa si può fare per eventualmente rispondere a tutte le sue indicazioni, sia di natura pratica, perché le dice insomma cosa posso fare oltre che rivolgermi all'associazione dei consumatori, ma soprattutto visto che tra l'altro c'era anche, si era parlato nei mesi scorsi di una possibilità che le vecchie azioni potessero essere convertite in un altro strumento finanziario, un warrant a sua volta convertibile in azioni della nuova società, non se ne è parlato più, magari anche questa insomma è una strada aperta, visto che questo a Walter interessa. A Salvadanaio siamo ritornati sul caso Alitalia per fare il punto della situazione sulla sorte di ex obbligazionisti e ex azionisti, alla luce del fatto che da ieri il titolo è stato cancellato dalla borsa italiana. E allora sono con noi questa mattina l'avvocato Gianfranco Graziadei, rappresentante comune degli obbligazionisti Alitalia, oltre che docente di diritto bancario alla LUIS di Roma e avvocato, e Roberto Tascini, segretario nazionale dell'ADOC, che sto congelando ancora per un po'. Sento anche Gianni da Vercelli, dopodiché che andiamo alle risposte e alle considerazioni con Tascini. Gianni. Buongiorno. Una informazione. Per il possesso di azioni e obbligazioni all'Italia, per entrare diciamo nel circolo dei conti dormienti, cosa deve fare? Come deve attivarsi? Gianni, ad averlo l'ammontare intanto dei conti dormienti, questo lo sapremo solamente credo a fine maggio, quando il Ministero dell'Economia avrà un quadro completo delle risorse disponibili e che dovrebbero essere destinate tra l'altro non solo a voi, se lei è un ex azionista o obbligazionista, ma anche ad una platea molto più ampia. Allora Roberto Tascini, credo che con le ultime due telefonate abbiamo messo un bel po' di carne al fuoco, da quale vuole partire? Partiamo dai conti dormienti? Sì, partiamo dai conti dormienti. Io vorrei fare una premessa a questo intervento, nel senso che come emerge dagli interventi, questa di Alitalia è stata purtroppo e si sta delineando come una brutta vicenda, cioè nel senso che fin dall'inizio noi come associazione dei consumatori abbiamo constatato un'elevata trascuratezza di quelli che sono gli interessi dei risparmiatori, e purtroppo in questa fase i nodi stanno diciamo venendo al pettine. Per quello che riguarda la domanda più specifica appunto del famigerato conto dei fondi dormienti, certamente il fatto che dovrebbe essere l'unico punto di riferimento per ovviamente gli azionisti all'Italia ci preoccupano un poco, per i motivi che sono stati già detti da lei esaurientemente, cioè che questo fondo tra l'altro non si sa ad oggi con precisione di quanti soldi dispone. Non solo, ma una cifra precisa la potremmo sapere solo il 31 maggio del 2009, perché entro quella data diciamo questo fondo dovrebbe arricchirsi anche degli assegni circolari non riscossi, delle polizze vita prescritti e di altri strumenti finanziari. Però ecco, il fatto più significativo e che più ci allarma è in un certo qual modo la destinazione di questo fondo, che fino ad oggi vede diciamo presi in considerazione non solo gli azionisti all'Italia, ma anche i risparmiatori vittime delle frodi finanziarie, i possessori di obbligazioni della Repubblica Argentina. Non solo dovrebbe finanziare anche, come è stato detto, la carta acquisti, la famosa social card, e la ricerca scientifica, quindi cioè dentro c'è è una coperta assolutamente troppo stretta e insufficiente, per cui noi stiamo onestamente valutando anche altre poiché i risvolti di questa vicenda per certi versi sono anche abbastanza inquietanti e oscuri, stiamo valutando come associazione dei consumatori anche la possibilità di avviare delle cause civili, perché ad esempio vorremmo approfondire il tema che molte banche, nonostante sia questa situazione di crisi che sia stata diciamo annunciata e presente ormai da un biennio, verificare se hanno nel tempo avvertito come avrebbero dovuto diciamo i clienti e gli azionisti del rischio che correvano. Anche se, voglio dire, relativamente a questa situazione, l'incertezza intorno alla quale è navigata la sorte di questa società è un'incertezza della quale parliamo da molti anni, non è un fulmine a ciel sereno come Parmalat. Poi, per certi versi, voglio dire, gli analisti finanziari anche lì si erano in alcuni casi ben resi conto di come avveniva in maniera precaria la comunicazione alla comunità finanziaria, appunto, della situazione finanziaria della società. Per quello che riguarda le obbligazioni argentine, lo Stato che fosse sul punto del collasso, in molti se ne erano accorti, anche le società di rating. Detto questo, per l'Italia stiamo andando dietro ad una società che ha una sorte un po' incerta da molti anni. Detto questo, da molti anche che era più volte stato auspicato il congelamento delle azioni e la Consob non l'ha fatto, e comunque molti hanno lo stesso in ogni caso deciso di investire proprio nel settore azionario. Tascini, tornando invece al caso di Walter da Roma, lui ha detto si è rivolto al Codacons, deciderà se rivolgersi ad un legale che lo segua in maniera diciamo individuale, ma se fosse venuta all'Ado, che lei che cosa avrebbe detto a Walter? Perché qui abbiamo anche una persona che ha fatto un investimento enorme in un momento in cui le vicende della società erano in piena evoluzione. Lui si riferiva al momento in cui lo scorso anno l'ex ministro dell'economia Padoa-Schioppa appunto disse c'è la strada aperta per presentarci delle offerte, le compagnie aeree anche europee si facciano avanti, ci dicano quello che possono proporci per eventualmente salvare la compagnia italiana. Certo, sì, giustamente come lei sottolineava anche in precedente intervento, è chiaro che l'investimento in azione rappresenta sempre comunque un investimento in una forma di capitale di rischio, per cui è ovvio che proprio per questo motivo noi di fronte agli azionisti credo che dovremmo fare una distinzione, perché già dalle segnalazioni che abbiamo ricevuto ci sono casi da distinguere, ci sono ad esempio ex dipendenti che hanno ricevuto le obbligazioni al posto di voci del salario e quindi almeno dal nostro punto di vista questi non possono essere trattati ad esempio come semplici risparmiatori, ma hanno a nostro modesto avviso una sorta di precedenza come creditori. E poi ci sono coloro che si sono affidati come intermediari a delle banche che, ripeto, magari non hanno provveduto come richiedono, diciamo, la nuova normativa, quella della MiFID, sì. Una adeguata informazione, e magari gli è stata, diciamo, affibbiato questo titolo senza valutare sufficientemente se era un titolo adeguato al profilo, diciamo, economico-finanziario di questo soggetto. Per cui, per quello che ci riguarda, ecco, tratteremo singolarmente proprio e faremo una valutazione attenta anche per predisporre delle misure di difesa che siano, diciamo, adeguate e che rispecchino anche i casi che, ripeto, sono estremamente variegati tra di loro. Infatti, cosa che io vorrei sottolineare è che in tutta questa vicenda è mancata, appunto, sono stati citati anche se sono casi diversi quelli di Parmalat e di Cirio, ma ad esempio nel caso di Parmalat noi come associazione dei consumatori fummo convocati dal commissario Bondi proprio per individuare insieme delle soluzioni per ristorare e per venire incontro ai piccoli azionisti. Invece in questo caso non siete stati mai interpellati. Nulla di tutto questo. Ma probabilmente, magari nel caso, quando verrà quantificato l'ammontare disponibile nelle risorse dei conti dormienti, appunto, forse in quel momento dovrete necessariamente essere convocati, perché poi lì tristemente dovrà essere per forza stilata una graduatoria degli eventi diritto a questo ristoro, che sarà assolutamente poco, però insomma magari qualcosa verrà fuori anche da lì, ma questo lo sapremo solo tra qualche mese. Ci sono molti punti tra l'altro che mi sono segnata anche da affrontare con l'avvocato Grazia Dei, però ci metto insieme un altro paio di ascoltatori. Per esempio, visto che Tascini ha anche citato il caso per esempio di molti ex dipendenti che si trovano in mano strumenti finanziari della vecchia compagnia e se ne trovano in mano loro malgrado. Antonio da Roma, buongiorno. Buongiorno, congratulazioni per la trasmissione. Il mio inserimento è in merito ai warrant che abbiamo ricevuto come dipendenti dell'Alitalia S.p.A. nella caso mio sono circa 44.000 e non abbiamo cognizione di cosa possiamo recuperare. Qual è l'equivalente in soldoni, Antonio, di questi? Al momento dell'assegnazione, sì, in cambio di prestazione contrattuale, quindi non abbiamo rinnovato un contratto, ma abbiamo dato una prestazione migliore di contratto, ottimizzazione, in cambio di warrant che in questo momento erano scambiati, scusi, a un'azione, il valore di un'azione per un warrant. La ringrazio, Antonio. Metto insieme, credo che abbia una situazione simile anche Miria da Roma, poi assegno tutta la risposta dopo i suggerimenti per chi è in viaggio all'avvocato Grazia Dei. Miria. Sì, Miria, buongiorno. Senza M finale. Senza M. Grazie. Buongiorno, io sono nella stessa situazione, non so se dire ex dipendente perché sono in cassa integrazione, quindi a noi ci hanno dato queste azioni che io ho mantenuto, non ho voluto intenzionalmente vendere per una questione affettiva, sì, e adesso non mi ritrovo nemmeno con il valore nominale, assolutamente. Il valore nominale quando ce l'hanno date erano 1.000 euro per azione, 1.000 lire per azione. Quindi adesso ce la dà un bel po', Miria, certo. Certo, e quelli erano rinnovi contrattuali, è la stessa condizione per i warrants che a noi ci avevano dato con un valore fino ad un valore di 0,37, quando poi le azioni valevano nemmeno 0,18, insomma. Sì, infatti gli ultimi prezzi, tra l'altro, segnati al 4 giugno, adesso io così vi do indicazione dell'ultimo prezzo segnato prima del congelamento dalle contrattazioni, 44 centesimi e mezzo di euro, il 4 giugno. Miria, grazie anche a lei. Allora, Antonio da Roma e Miria da Roma, due ex dipendenti all'Italia. Miria dice non tanto ex dipendente, sono in cassa integrazione di fatto, per rinnovi contrattuali in passato hanno ricevuto strumenti finanziari della vecchia compagnia e dice adesso noi che cosa ne facciamo. Avvocato Grazia Dei, sono sotto la sua tutela queste due persone? Teoricamente? La mia tutela no. Però posso rispondere come avvocato alle loro richieste. La ringrazio molto, allora. Giustamente loro bisogna individuare due piani diversi. Uno è che cosa valgono le azioni e le obbligazioni oggi, l'altro è perché io ho obbligazioni o azioni. Il caso dei due dipendenti che hanno ricevuto obbligazioni, warrant o quello che sia, l'hanno ricevuto in esecuzione di un contratto di lavoro. Si tratta di vedere se questo che loro hanno ricevuto ha esaurito, ha novato, come si dice, il rapporto obbligatorio che nasceva dal contratto di lavoro, o se viceversa le hanno ricevuto questi titoli, diciamo così, salvo buon fine, gli hanno dato i titoli invece del denaro, ma con una sorta di garanzia che quei titoli poi sarebbero diventati denaro. Quindi questo è certamente un piano che va visto caso per caso in relazione alle clausole, alle condizioni del contratto di lavoro e di quell'atto in base al quale loro hanno preso questi titoli in sostituzione di un qualche altra cosa ed in cambio di una prestazione. Infatti, ma il problema è chi li risarcisce, perché visto che non possono insinuarsi al passivo, ovviamente l'aspetto dei conti dormienti lo metterei proprio completamente da parte. A chi si possono rivolgere due persone che stanno sotto questa categoria? Però anche se la controparte è sempre l'Italia commissariata, fallita, cambia l'aspettativa del loro credito, perché da credito chirografario potrebbe diventare credito privilegiato e quindi potrebbe trovare capienza in quello che sono i risultati della liquidazione, perché ho capito, agli altri chirografari. Diverso ancora invece l'altra ipotesi che accennava lei prima, cioè il fatto di chi gli ha dato queste azioni e perché gliele ha date. Perché è chiaro che un intermediario finanziario può aver fatto bene il suo dovere, può aver fatto male il suo dovere, quindi avere assunto una responsabilità nell'avere forzato il soggetto ad acquistare delle azioni o delle obbligazioni senza dargli tutte le informative necessarie, quelle che prevede la MiFID e che prevede comunque il buon governo dell'attività bancaria. Senta, ci metto insieme anche Francesca da Roma, che forse vuole rifarci la stessa domanda rispetto al caso che abbiamo appena trattato. Francesca? Buongiorno, sì. Sono una ex dipendente della vecchia Alitalia. E adesso dove sta Francesca? No, io sono stata esodata e quindi sono via dall'azienda. Ho capito. E mi interessava sapere, siccome ho potuto sentire soltanto una piccola porzione di questa trasmissione, e ho delle obbligazioni sottoscritte all'epoca di un contratto di lavoro che ci fu rinnovato a base di azioni, come e la miri, possibilità di sottoscrivere obbligazioni, se noi avevamo un titolo di privilegio per avere questi soldi e poi avevo perso completamente il dove e il quando presentare la richiesta. Mm-hmm. Sì, non è che abbiamo dato un'indicazione così precisa, Francesca. Comunque, siccome l'avvocato Grazia Dei è una persona molto disponibile, magari ci ribadisce ancora in maniera un po' più sintetica, se riusciamo, le considerazioni espresse fino a questo momento e che valevano per Antonio e per Miria. Il tema in questo caso anche per Francesca è capire come sta andando avanti la liquidazione degli asset da parte di Fantozzi, avvocato? Sì, il commissario sta andando avanti, ora lo dico subito per rispondere alla domanda precisa. Mm-hmm. È possibile che ci sia una situazione soggettiva che diversifichi il credito di quella dipendente all'Italia da quello degli altri obbligazionisti. E questa è effettivamente diversa, è una condizione soggettiva diversa rispetto ad altri obbligazionisti che magari hanno acquistato titoli sul mercato da un intermediario, certo. Certo, quindi questa è la prima risposta. Come sta andando avanti la liquidazione? La liquidazione sta andando avanti, direi, piuttosto rapidamente e piuttosto celermente. Arrivano manifestazioni di interessi da più parti per la vendita dei vari pezzi della società dell'Alitalia e quindi si fanno valutazioni, perizie, si cerca, il commissario sta cercando di concludere quanto più rapidamente possibile la liquidazione. Ecco, qualora Fantozzi, avvocato, facciamo un'ipotesi futuribile e magari, che ne so, anche probabile, si ritrovasse una volta liquidati gli asset, portata avanti appunto l'attività di liquidazione, le risorse necessarie per poter effettivamente risarcire, no? Ex dipendenti titolari di obbligazioni frutto appunto di rinnovo contrattuale, come ci hanno spiegato gli ex dipendenti, lì teoricamente come funziona? È la società in liquidazione che comunque ricontatta queste persone, questi creditori, per comunicare loro abbiamo la disponibilità di queste risorse da potervi redistribuire? È una domanda da Alice nel Paese delle Meraviglie. No, non è da Alice, è una cosa, è una possibilità poco probabile. La probabilità sarà piuttosto quella che, seguendo l'andamento della liquidazione, siano gli interessati che, arrivati a un certo punto, bussino alla porta del commissario dicendo: beh, su questo che avanza noi chiederemmo questo, cerchiamo di metterci d'accordo. Magari allora, insomma, farsi seguire da un legale forse in questo caso è come dire il suggerimento più idoneo. Senta, avvocato Grazia Dei, ci sono invece molti ascoltatori che, a proposito dell'aspetto che abbiamo affrontato nella prima parte di Salvadanaio, l'insinuazione al passivo e adesso i mesi di tempo che gli obbligazionisti hanno per poter presentare e depositare al Tribunale di Roma la documentazione giustificativa del diritto di essere appunto obbligazionista, gli ascoltatori ci chiedono come si fa a depositare il certificato alla cancelleria. Anche in questo caso, quelli che rappresenta lei, li contatta lei? Come funziona tecnicamente? No, io non li contatto, è un rapporto che ciascuno deve avere direttamente con la cancelleria, è una domanda, lo portano in cancelleria e dovrebbero eleggere un domicilio in Roma, altrimenti si devono tenere loro al corrente di quelle che sono le future evoluzioni. Speriamo che la cancelleria sia chiara anche nel fornire questa precisazione. Devono eleggere un domicilio in Roma per poter essere eventualmente contattati rapidamente sull'evoluzione della situazione? Certo. Questo trovano, tutte quante queste spiegazioni le trovano in quell'avviso ai creditori all'Italia che è stato fatto dal commissario Fantozzi in data forse 12 novembre? Il 12 novembre, credo. Scorso. In ogni caso ci sono tutte le informazioni su questi punti sul sito www.tuttoattaccatoalitaliaamministrazionestraordinaria.it, per cui anche lì saprete quello che dovete fare appunto. Un'ultima domanda, perché siamo già in chiusura purtroppo, perché qui credo che forse saremmo riusciti anche ad andare avanti per altri minuti. Mario dalla provincia di Vicenza, l'ho tenuta fino alla fine, però speriamo di accontentare anche lei. Buongiorno. Buongiorno a lei, signora. E per fortuna che c'è Radio 24 a questo punto, altrimenti l'Italia affonda. No, speriamo, non ci dia tutta questa responsabilità, signora, no, Mario. Veramente, quello che sto dicendo lo dico col cuore. Grazie Mario, ci dica rapidissimo. Sì, in parte ha risposto ultimamente l'avvocato, grazie a lei, a quello che volevo chiedere io. Era appunto piccoli azionisti e obbligazionisti come me, e a chi si devono rivolgere per non rivolgersi a un avvocato che poi magari non ne vale neanche la pena più? Beh, magari, sì. Magari forse vale la pena rivolgersi ad un avvocato che sappia bene la situazione, che conosca bene la situazione, che magari per un'associazione dei consumatori l'abbia già seguita. Solo che io, Mario, guardi, mi si spezza il cuore, ma ho un minuto di tempo per risponderle e non riesco a farla intervenire di più. Però, per chi non ha intrapreso nessun tipo di iniziativa autonomamente, Roberto Tascini di ADOC ci può aiutare lei a dire come farebbe muovere, Mario? Guardi, noi abbiamo proprio sul nostro sito, diciamo, un banner in cui, diciamo, sistematicamente cerchiamo di aggiornare le informazioni che abbiamo in nostro possesso per orientare appunto i consumatori. Per cui, ecco, il consiglio è non solo della nostra associazione, ma anche delle altre associazioni che se ne stanno occupando, è di seguire in maniera il più possibile sistematica l'evoluzione della situazione e ripeto, dalla trasmissione è emerso l'estrema, diciamo, articolazione dei soggetti che sono coinvolti in queste situazioni. Noi cercheremo di fare delle azioni mirate e, laddove è necessario, anche delle cause civili per cercare di recuperare e di far rispettare i propri diritti. Magari, visto che l'abbiamo liquidato in tempi strettissimi, saremo stati anche un po' maleducati all'ultimo ascoltatore che ci ha chiamato, se ha tempo ci scriva all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, cercheremo magari di darle una risposta un po' più esaustiva. Grazie Tascini, grazie molte anche all'avvocato, grazie a lei, so che avremmo dovuto raccontare molte altre cose, tipo l'aspettativa che molti ex azionisti hanno di vedere le proprie vecchie azioni trasformate in nuove azioni. La nuova Alitalia non andrà in borsa prima di almeno 3 anni, per cui almeno a questo momento questa ipotesi è da accantonare completamente. Qualora si concretizzasse qualcos'altro, saremo pronti subito a raccontarlo a Salvadanaio. A domani.